Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Sì, pronti, operativi come sempre dal Groove Master Studio per il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi, buon sabato da Gegè Telesforo, buonasera al nostro dottore in comunicazione Francesco Tromba, che ormai da qualche settimana ha preso in mano questa patata bollente come responsabile del soundcheck del repertorio in italiano. Quanta musica hai ascoltato questa settimana? Tantissimo, e devo dire che mi sono più volte bruciato con la patata bollente. Ti sei bruciato perché? Perché non è semplicissimo riuscire a trovare della musica in italiano da passare in radio, che non sia, diciamo, quella scontata, solita. Quella presente nelle classifiche, quella classica da airplay, sì, radiofonico dei network concorrenti, no? Qualcosa di più indipendente. Vabbè, ma noi non facciamo concorrenza a nessuno, perché suoniamo proprio un altro tipo di repertorio. Sì, infatti. Ed è la cosa che ci sta premiando, perché tantissime sono le email che arrivano all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, potete farlo. E poi vi ricordo anche che tutti i brani in airplay, quindi le scalette che noi vi proponiamo, le troverete in bella vista nelle pagine del sito groovemasteredition.it. Veniamo subito a noi, partiamo quindi come sempre il sabato ormai da qualche settimana con il repertorio in italiano selezionato e diretto dal nostro Francesco Tromba. Sì, parliamo di Domenico Imperato. Lo conosci? Domenico Imperato, non personalmente, è un nome che ho ascoltato, però sinceramente mi trovi un po' impreparato e mi scuso anche con Domenico Imperato, che se è stato selezionato da Francesco Tromba avrà i suoi meriti. Quali sono i meriti di Imperato? Ha deciso di dire basta al cantautorato triste italiano. Oh, dire. E questa è già una bella cosa, è un bel passo in avanti. Infatti ascoltando il suo disco quantomeno non ci viene la depressione sicuramente. Allora raccontaci qualcosa di Domenico Imperato. È originario, è il frutto, diciamo, di sua madre e suo padre sono... Beh, mi sembra no, sono normale. Suo padre era un tenore napoletano che è con lui ha iniziato appunto a suonare. Invece sua madre è originaria della provincia di Bari, però lui è cresciuto a Pescara. Negli ultimi anni ha vissuto fra il Brasile e il Portogallo. Bene. E lì appunto in Brasile ha fatto questo suo ultimo lavoro, suo primo e ultimo lavoro per il momento. Il primo album, sì, della sua carriera, a suo nome, lo ha realizzato in Brasile? In Brasile, sì. E quindi anche ispirato come sonorità a, sì, a quel mondo. Infatti lui parla di tropicalismo mediterraneo, perché comunque... Ah. Parte sì dalla musica brasiliana, però cerca di renderla un po' più tu italiana. Ricordi il periodo del tropicalismo brasiliano degli anni 70, fine anni 60, primi anni 70, con Caetano Veloso e tutti, sì, gli infatti altri. Lui fa riferimento a quel periodo, però cerca di riportarlo comunque all'esperienza italiana mediterranea. Sì. Molto bene. Allora, come si intitola l'album di Domenico Imperato? Postura libera. Postura libera, interessante, sì. Anche un po' brasilero come tipo di sonorità. Sì, praticamente parla ormai quasi solo portoghese, anche se ultimamente è tornato in Italia. Dobbiamo dire. Allora, che cosa ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare Riposa. Riposa. Sì. Di che parla questa canzone? Non me lo ricordo. Allegria di un gioco d'amore, dal dolore ci allontaniamo, vita mia da sfruttare, ora insieme al tuo bianco ricamo. La creatività di Domenico Imperato, artista italiano della nuova generazione, selezionato per questa prima parte del nostro soundcheck, e quindi il repertorio in italiano, dal responsabile Francesco Tromba. Il brano era Riposa, tratto dal suo album Postura. libera. Postura libera per Domenico Imperato. Quindi gli artisti italiani, lo possiamo affermare, mio caro Francesco, hanno ancora delle chance, pur non partecipando magari ai reality show tipici della televisione contemporanea, ancora ci sono degli spiragli. Sì, si può fare come hanno fatto tantissimi artisti, la gavetta classica, cioè sicuramente è formativa, però ovviamente non si arriverà subito alla notorietà. Una volta i direttori artistici delle case discografiche andavano in giro per locali, selezionavano gli artisti, facevano i provini, producevano, investivano sui nuovi artisti. Adesso tutto questo non esiste più, anche perché saprai benissimo, e l'abbiamo ripetuto più volte, che le case discografiche sono in crisi nera, i dischi non si vendono, e quindi gli artisti che cosa fanno? Si producono i loro album e poi li mettono in bella vista, in bella mostra, sui portali dei quali abbiamo già parlato, Bandcamp, SoundCloud. Quindi in qualche modo gli artisti sono anche proprietari dei loro master, non devono cedere nulla alle case discografiche. Sì, è alla fine forse l'unico spiraglio per guadagnare realmente dal proprio lavoro è fare appunto i concerti live. Però è una mentalità che ancora in Italia non ha attecchito, no? Perché io vedo ancora ci sono i ragazzi che mandano, inviano i loro provini alle case discografiche, invece all'estero i giovani artisti, i giovani talenti, quelli che fanno tendenza, che spingono su sonorità diverse da quelle proposte poi dal grande mercato delle multinazionali, sanno che possono trovare soltanto nelle piattaforme internet la giusta ribalta per le loro sonorità. In Italia c'è ancora Sanremo, quindi noi forse pensiamo. Però abbiamo parlato anche che c'è stata la polemica perché le etichette indipendenti, sì, hanno, alcune etichette indipendenti legate a Audiocoop hanno avuto problemi nella partecipazione. Non sappiamo la storia come sta andando avanti, però se appartieni a una multinazionale forse le cose si semplificano. Sì, sicuramente, ai canali magari più aperti, più oleati. Oppure devi partecipare a X Factor, eppure lì è difficile. Tra l'altro ho letto un articolo sul Fatto Quotidiano, non so se l'hai letto anche tu, sì, qualche l'ho letto settimana fa. Di Paolo Serra. Paolo Serra, un articolo che mi è piaciuto tantissimo, perché ha fatto proprio un'analisi critica, ma perfetta, non solo del programma televisivo, ma di quanto può essere dannoso quel tipo di esposizione per un giovane artista. Ne vogliamo parlare dopo? Sì, anche sì, parliamone dopo, perché abbiamo parlato abbastanza. Direi, che vuoi fare? Vuoi farci ascoltare qualche altro brano tratto da Postura Libera? Sì, ascoltiamone un altro. Tipo? Frutta Tropicale. Oh, di che parla? Parla di un mercato brasiliano dove lui arriva, Domenico Imperato arriva e scopre tutti questi nuovi frutti strani e ha voglia di provarli tutti, ed è un'esplosione di colori, di sapori, di gusto. Di gioia anche per noi? Sì. Benissimo, Frutta Tropicale, Domenico Imperato al soundcheck di Radio 24. Dentro un orto del Brasile, mancano i sensi e le parole, senza orientamento e posizione, mangio a dismisura e sproporzione, curiosamente io annuso e divoro, pronuncio, tocco, assaggio, spremo e sfioro. Soundcheck, il suono della musica. È il momento del repertorio in italiano, selezionato dal nostro Francesco Tromba per questo appuntamento del soundcheck qui su Radio 24 con Gio Telesforo e naturalmente Francesco Tromba, puntata numero 188. Abbiamo parlato delle difficoltà che ancora gli artisti, i giovani artisti italiani incontrano nel poter esporre la loro mercanzia musicale sul mercato, sul vasto mercato di discografico, quanto è difficile poter approdare nelle radio con le loro produzioni, soprattutto se indipendenti, quindi se non si appartiene a delle multinazionali. E poi ci sono i programmi televisivi, c'è X Factor, c'è Amici, c'era Amici o c'è ancora Amici? C'è ancora Amici. Ma soprattutto X Factor, che sta facendo un boom di ascolti lì su Sky, però un giornalista italiano che scrive sul Fatto Quotidiano, anche autore e regista, ovvero Paolo Serra. Paolo Serra ha scritto un bellissimo articolo. Come si intitolava l'articolo scritto da Paolo Serra, Francesco? Si intitolava X Factor 8, il grande inganno della musica. Allora, riassumendo l'articolo di Paolo Serra, oppure leggendo qualche passo di questo scritto. Sì, lui allora innanzitutto critica, diciamo, la parte sia gestionale del programma, nel senso che i tweet che arrivano secondo lui non sono talmente tanti rispetto a quelli che uno dovrebbe aspettarsi per un programma di successo. Lui dice che sono solo 50.000 tweet attraverso il tag XF8, quindi secondo lui sono un po' pochi rispetto... Non mi sembra però che sia questa la parte importante dell'articolo. No, lui dice fondamentalmente che l'apparizione X Factor di questi nuovi talenti, che viene promessa come il trampolino di lancio per un futuro roseo, spesso in realtà si rivela qualcosa di controproducente per questi artisti emergenti. Infatti, se ci pensiamo bene, da X Factor siamo arrivati all'ottava edizione, tu quanti artisti ti ricordi venuti fuori Marco, da X Factor? Marco Mengoni sicuramente, che poi è diventato una star del pop italiano, e forse Giusy Ferreri, gli altri non li ricordo. Sì, però Giusy Ferreri... No, c'è Chiara, anche Chiara ha fatto un po' di cose. Stanno avendo un po' di difficoltà, ad esempio loro due. E poi bisogna avere un team, insomma, se uno la musica non se la scrive e non c'è anche quel tipo di talento, diventa complicato. Torniamo allora al repertorio in italiano, va bene? Andiamo ad Agnese Valle. Sorella dell'attrice Anna Valle. No, credo proprio di no. No, ma scusa, presentami Agnese Valle, perché non ho mai sentito questa ragazza. Sì, è una cantautrice romana, questo è il suo disco d'esordio, che si chiama Anche Oggi Piove Forte. Lei è una clarinettista diplomata al Conservatorio di Santa Cecilia. Oh, grazie a Dio, brava Agnese. Ed è passata, ha iniziato a suonare il clarinetto perché... Quando ha iniziato a suonare, lei in realtà aveva iniziato con il sassofono, aveva 8-9 anni, però non riusciva a reggere in mano il peso sassofono, dello strumento. Quindi le hanno proposto il clarinetto e da lì si è innamorata di questo strumento, l'ha studiato e si Ma è diplomata. Ma lo suona anche nel disco? Sì, anche nel disco. Ci sono alcuni intermezzi in cui suona proprio quasi solo ed esclusivamente il clarinetto, e sono dei brevissimi intermezzi, però molto belli, devo dire. Che ci fai ascoltare? Vi faccio ascoltare Il Dente. Sì, Il Dente. Il Dente, che parla? È uno swing, diciamo, sempre per dire basta appunto al cantautorato italiano triste. Pure lei, Agnese sì. Valle con Il Dente qui al Soundcheck di Radio 24. Hai perso una nuova occasione per stare zitta e gira, gira, gira la saetta, torna addosso. Me lo diceva anche mia nonna Elisabetta, quanta strada ti mancava per la verità. Ma non importa, non so se ti sei accorta, fortunatamente nella vita c'ho da fa. C'ho da fa, fortunatamente c'ho da fa. Fortunatamente c'ho da fa, fortunatamente c'ho da fa. Anche oggi piove forte è il titolo dell'album di Agnese Valle, clarinettista, songwriter italiana, che qui al Soundcheck Radio 24 ci ha proposto Il Dente, brano e artista selezionati dal nostro Francesco Tromba, responsabile del repertorio in italiano. E ci sono anche delle altre novità che sono state pubblicate ultimamente, e qui approdiamo invece a una veterana della canzone italiana. Sì, una delle veterane con la voce più bella in assoluto nel panorama italiano. Sì, una voce affidabile, amata dai grandissimi autori, si circonda sempre di staff di prima grandezza, grandi arrangiatori, musicisti, le tournée che fa la nostra Fiorella Mannoia riscuotono grandissimi consensi, sempre il sold out, il tutto esaurito, e Fiorella Mannoia ha avuto la bella idea di recuperare una composizione di Paolo Conte, famosissima, intitolata Boogie, di realizzarne così una sua versione coinvolgendo un rapper. Allora, a questo punto la domanda sorge spontanea, mio caro Francesco Tromba: questa accoppiata Fiorella Mannoia Frankie High Energy potremmo definirla o no una strana coppia, un po' come quella formata ultimamente da Tony Bennett e Lady Gaga? Estremizzando un pochino, sì, potremmo paragonarla, anche se Frankie Energy aveva già collaborato con artisti molto diversi da lui, che non facevano proprio parte del genere hip hop, rap. Ma io ti dico la mia, queste sono le operazioni che mi divertono e mi piacciono, proprio questo incontro di stili e di culture diverse che rendono frizzante anche la musica italiana. Sì, sono quando riescono bene questi incontri sono veramente una chicca. E questa versione di Boogie ti piace? Tantissimo, per questo l'ho scelta. Allora, Fiorella Mannoia e Frankie High Energy con Boogie di Paolo Conte per chiudere questa selezione di repertorio in italiano, selezionata dal nostro Francesco Tromba qui al Soundcheck, sempre su Radio 24. Due note e il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane e lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Ad Atlanta, credo che sia ancora ad Atlanta, Algebra Blessed, ma quando mi recherò negli Stati Uniti prossimamente farò di tutto per incontrare questa formidabile artista della nuova generazione, contemporary R&B, soul, molto richiesta anche dai nuovi esponenti del jazz contemporaneo. Algebra Blessed al Soundcheck con il brano con il quale si è fatta conoscere, Danger Zone. Adesso questa giovane artista, della quale ci ha anche parlato il nostro Fabrizio Sotti, producer, chitarrista italiano, che ha presentato qualche settimana fa qui al Soundcheck il suo album con molti artisti come ospiti, fra i quali anche Algebra Blessed, e quindi abbiamo in qualche modo la possibilità, insomma un passepartout che ci permetterà di poter avvicinare Algebra Blessed e magari di chiedere anche la sua collaborazione in qualche produzione futura. Algebra Blessed al Soundcheck, quando sta per arrivare un'altra artista della nuova generazione, nordica, nord-europea, la nostra Fatima, che con questo nome però poi sbarca a Londra, dove ha fatto gran parte della sua carriera, anche se giovanissima, però la sua attività inizia professionalmente nel vero senso della parola a partire dal 2006, giusto? Sì, quando si trasferisce a Londra. Fisicamente non direste mai che è svedese, perché assolutamente no, perché ha tratti somatici, sì. Diciamo etnici, sì, molto etnici. Anche i capelli sono... non è una ragazza Ikea. No, decisamente no. Ha iniziato appunto dal 2006, frequentando la scena londinese, ha conosciuto diversi DJ e producers, tra cui anche i fondatori dell'etichetta High Glow Records, che è quella che ha prodotto l'album. cioè Alexander Nutt e i Floating Points, dei quali poi è diventata anche la vocalist. Questo gruppo dei Floating Points ha vinto nel 2010 il premio dato da Giles Peterson Worldwide. E infatti Giles Peterson poi l'ha proposta in radio nei suoi programmi sui canali della BBC, ma anche poi sui vari network che guida via internet, l'ha portata nei suoi festival, e oggi Fatima è un nome accreditato per tutti quegli appassionati di musica che seguono le sonorità che stanno a cavallo fra jungle, hip hop, contemporary R&B, con una voce che ricorda un po' quella di Erykah Badu, prima maniera. Eccola qui, Fatima con Family, qui al Soundcheck di Radio 24. Poi facciamo una breve pausa per dare spazio all'informazione di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck, prova del suono di Radio 24 con Gegé Telesforo e Francesco Tromba. Tantissime le email che ci hanno raggiunto questa settimana all'indirizzo soundcheck@radio24.it. Ce n'è una di un nostro appassionato ascoltatore che ci chiede informazioni su quel producer che abbiamo presentato la settimana scorsa, che ha rivisitato I Wish di Stevie Wonder e dove si possono trovare i suoi album. Vogliamo rispondere, mio caro Francesco? Allora, sì, si chiama Ahmed Sirur. Ahmed Sirur. Allora, intanto, tanto per ricapitolare, Ahmed Sirur rappresenta proprio il musicista, producer, DJ visionario della nuova generazione. Autodidatta come pianista, laureato a Londra in ingegneria del suono, ha un'abilità. Qual è l'abilità, qual è il pregio, la forza di Ahmed Sirur? Riesce a rendere nuovi dei brani che comunque sono storici, possiamo dire, perché appunto I Wish di Stevie Wonder è un pezzo di storia della musica. E lo fa con grande classe, perché in molti casi, per rendere, che so, dance un brano immortale del passato, del repertorio soul, a volte bisogna involgarirlo. Invece lui lo rende contemporaneo mantenendo una classe da grande arrangiatore del passato. Sì, mantenendo comunque anche lo spirito del brano, cioè non lo sconvolge in maniera certo, totale. Certo, non modifica assolutamente la melodia, quindi rispetta in qualche modo anche le tensioni armoniche, pur cambiando il senso, anche l'atmosfera. Ahmed Sirur ci piace un sacco. Allora, volendo ascoltare ancora una volta il lavoro di questo ragazzo, che troverete non su disco, bensì andando a visitare la sua pagina presente su SoundCloud. Sì, o anche su Bandcamp. Anche su Bandcamp. Quindi questo signore ha capito che il mercato ormai si fa lì. Sì, è ormai quasi tutto verrà pubblicato. No, guarda, io lo devo contattare, gli devo proporre qualcosa e voglio anche sapere se fa, non so, se chiamarli DJ set o comunque se fa delle performance. Bisogna assolutamente conoscerlo. Ahmed Sirur, lo apprezziamo ancora una volta con il suo remix realizzato per un classico del repertorio della poetessa del New Soul, Jill Scott, from Philadelphia. Il brano splendido è Golden, ma il remix è di Ahmed Sirur. Qui al Soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Man, I'm mistaken, love. Un altro protagonista del soul e contemporary R&B, Eric Robertson. Tra l'altro, questo album intitolato The Box, dal quale abbiamo tratto Lust for Love con la partecipazione di Tracy Lee, è un album segnalato fra i primi 10 dal sito Soul Tracks. Soul Tracks premia questo album di Eric Robertson e lo mette, mi sembra, al 9° posto fra gli album più interessanti di questa stagione. E da Eric Robertson andiamo a parlare nuovamente di un figlio d'arte e anche un nipote d'arte, sì, perché suo nonno è stato un grande interprete di spiritual, suo padre è quel fenomeno di Bobby McFerrin. Questo ragazzo si chiama Taylor McFerrin, anche lui è un artista della nuova generazione, musicista, cantante, beatboxer, ovvero fa le percussioni vocali, producer, DJ, insomma ha messo insieme tutte queste sue peculiarità per creare uno spettacolo contemporaneo. Si presenta da solo sul palco con le tastiere, i campionatori, il computer e fa il suo concerto. E il nostro Francesco Tromba è andato a vedere la sua performance qualche settimana fa a Roma, esattamente credo a Rialto. Che cos'è? Teatro Rialto? Cineteatro Rialto? Sì, fanno anche il teatro, gli spettacoli teatrali, anche le prove per gli spettacoli teatrali. Dunque, Francesco, ha incontrato Taylor McFerrin, gli hai anche proposto una bella intervista, abbastanza corposa, lunga, sì, che vi proporremo magari la prossima settimana quando avremo il tempo di estrapolare alcuni estratti interessanti. Ma essenzialmente, che effetto ti ha fatto Taylor McFerrin come ragazzo e come musicista? Che ti ha raccontato di interessante? Mi è sembrato un ragazzo molto umile, che comunque ammette anche i suoi limiti. Più di Morgan? Sì, decisamente molto di più. Mi ha raccontato comunque che anche lui non sa esattamente quale sarà il futuro della musica dal punto di vista della distribuzione, perché gli ho chiesto, una delle domande che gli ho fatto è stata appunto sulle case discografiche, nel senso sembra che via via andranno scomparendo, comunque modificandosi in una maniera molto più liquida, come possono essere appunto Bandcamp o SoundCloud. Perché anche lui ha utilizzato questi portali per farsi conoscere. Sì, il suo... pur avendo quel papà, quindi sì, insomma un po' di porte si potevano aprire naturalmente. Poi mi ha detto che comunque lui voleva fare, appunto ci ha messo così tanto per fare quest'album di d'esordio, perché voleva fare un lavoro... Sì, si intitola fatto, Early Riser. Fatto proprio a puntino, non voleva fare degli EP, ma fare un album fatto bene, in modo anche da differenziarsi da suo padre, di non ricollegare il suo nome a quello del padre. Che tipo di pubblico era presente alla performance di Taylor McFerrin? Mi sa anche molti musicisti c'erano. Sì, c'erano tanti musicisti, anche qualche producer. Ho incontrato anche un nostro amico Alex Paletta, che è stato nostro ospite nelle puntate della scorsa stagione. Da favoloso DJ non poteva perdersi quella performance. Ma devo dire che c'erano anche delle persone oltre i 50 anni, quindi un pubblico abbastanza... Come è andato? Successo? Sì, andato sì, bene? Gran successo. Abbiamo anche ballato in alcuni brani, devo dire. Allora, cerchiamo di capire che cosa combina Taylor McFerrin qui con Broken Vibes al Soundcheck. Check, il suono della musica. E e le orecchie attente degli appassionati di musica che seguono il soundcheck avranno riconosciuto la voce di Annie Lennox in questo classico del repertorio jazz intitolato Mood Indigo, tratto dall'ultimo album di Annie Lennox intitolato Nostalgia. E Annie Lennox, anche lei con questa nuova produzione, dà vita a un repertorio di classici di jazz rivisitati con la sua voce muscolare e sonora, e in alcuni casi devo dire è un po' stridente, lo devo dire, no? Da appassionato di musica, appassionato di jazz, ci sono alcune ballad che Annie Lennox invece interpreta con una vocalità troppo fuori dai cliché del jazz, e quindi in qualche modo non è che mi ha infastidito, ma mi ha colpito. Qualcosa, ecco, di diverso. Qualcosa di diverso dal solito. Fatto sta che Annie Lennox presenta questo album non nel catalogo del pop, ma nel catalogo del jazz, e quindi si ritrova prima in classifica. Sì, era la musica che ascoltava con più piacere quando era più giovane, quando era ragazza. Hai capito? Perché si inizia con il blues e si torna al blues. Quindi Annie Lennox, dopo aver fatto tutti i soldi che ha fatto con gli Eurythmics insieme al suo compagno Dave Stewart, poi mi pare che la storia sia andata a finire male, è tornata al blues, è tornata al jazz, è tornata alla sua passione e alle radici, e lo stanno facendo un po' tutti. Sì, anche Annie Lennox ha anche polemizzato un pochettino con Beyoncé, l'ha criticata per come utilizza, diciamo, il suo essere donna, è una bella donna, nel senso che lei ha detto che se si ha qualcosa da dire come artista, come donna, non bisognerebbe utilizzare il proprio corpo per vendere più dischi. Vabbè, questo lo ha detto Annie Lennox. Sì. Vabbè, fatto sta che Annie Lennox, dopo questa prova con Mood Indigo, torna al soundcheck di Radio 24 con una versione di un classico di George Gershwin, il super classico come Summertime. Vogliamo sentire che cosa ha combinato? Sentiamo un po'. Eccola qui, Annie Lennox al soundcheck. Summertime. Soundcheck, il suono della musica. All the things you've always pined for, how you'd like to see me looking swell, lady. Diamond bracelets, Woolworth doesn't sell, Gaga. Till that lucky day, you know. Non abbiamo ancora capito se per certi artisti pop il jazz diventa un rifugio quando sono in crisi di idee. Che ne pensi te? Secondo me un po' è vero. Un po', perché alla fine, beh, ma dobbiamo fare un nuovo disco per la casa discografica, ma abbiamo i brani nuovi? No, non ci sono. Che facciamo? Facciamo un disco di standard di jazz. Secondo me funziona un po' così. E quindi, come Annie Lennox ha prodotto Nostalgia, prima di Annie Lennox abbiamo avuto la pubblicazione di questo Cheek to Cheek, album prodotto da Lady Gaga, che incontra il decano dei crooner, Tony Bennett, qui presente al soundcheck con I Can Give You Anything But Love, e staremo a vedere che cosa combineranno i due. Per ora Lady Gaga fa un po' di tutto in questo momento, fa delle esibizioni con Tony Bennett, ma continua a fare i suoi concerti pop, anche se poi gli incassi al botteghino non stanno funzionando benissimo. È stata recentemente anche in Italia, credo abbia fatto sold out. Fatto sold out in Italia? Sì, a Milano se non sbaglio ha fatto sold out. Ma tu sei andata a vederla? No, è andata però una mia amica. Che ti ha detto? Ha detto che è stato uno spettacolo molto divertente e comunque sempre impressionante dal punto di vista della sceneggiatura. Quelle sono grandissime produzioni. Eh sì. Posso immaginare il guardaroba di Lady Gaga. Sì, sarà infinito. Infinito. Saranno stati due tir solo di vestiti. Chissà se con Tony Bennett utilizzerà gli stessi stilisti. Ma non credo. Non credo, bisogna andare sul classico con un veterano e anche un uomo elegantissimo con Tony Bennett, come Tony Bennett. Allora, siamo pronti a chiudere il nostro soundcheck. Vi ricordo che torniamo domani a partire dalle 15:30, poi la seconda parte, quella più jazz, che inizierà alle 19:15. Mio caro Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, sta partendo la campagna pubblicitaria per un noto marchio di vestiti giovanili con Lady Gaga e Tony Bennett. Secondo me questo disco venderà molto anche per Natale, potrebbe essere un ottimo regalo natalizio, perché anche se non conosci i gusti della persona a cui regali il disco, questo è un disco che secondo me ascoltano facilmente tutti. Si trova su Bandcamp? No, assolutamente no. Va bene. Allora, Tony Bennett e Lady Gaga chiudono con una ballad. Ecco, diventiamo romantici. La bellissima But Beautiful. C'è anche un video presente su YouTube e si vede Lady Gaga a un certo punto che si commuove in lacrime. Una cosa improbabile, devo dire. Sì, abbastanza finta forse. Non si sa. Tony Bennett e Lady Gaga al soundcheck. Ci sentiamo domani, sempre e soltanto su questi schermi, qui su Radio 24. Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful to take a chance. And if you fall, you fall.